ritmo seguiva la melodia. Nessuno sapeva della sua vita la trama, intrecciata com'era con la fantasia. Con cubino di Plutone, il buio era il suo regno, la sua religione. Creatura fragile, la dama appariva, con passo agile il cavaliere seguiva. Ad affascinare, ballando con grazia nelle morbide sale, mentre di notte inconsciamente ti apre le porte del male. Chi fosse veramente, nessuno lo sapeva. La leggenda la dice, proveniente da Giava, fu rapita di primavera per diventare